Va riconosciuta la tua sincerità, il tuo coraggio, assiute de fliunte. Nient'altro che questo. Continua pure a frequentare l'accademia e ad esporre liberamente il tuo pensiero. Ma ricordati che al divino si può arrivare anche senza leggi. Basta solo affidarsi a quel bene di cui sembra che tu vada orgogliosa. La ragione. Mi misi a sedere. Ma nella sua voce avevo percepito un tono meno ostile. La lezione venne interrotta per recarci nell'aula dei simposi. L'astenia non mi lasciò un momento sola, era tutta contenta per me. Ormai facevo parte dell'Accademia. Nonostante la mia sincerità, non mi avevano cacciato, era incredibile. Fu allora che mi scappò di parlare della serata che mi attendeva al Pireo e lei chiamò Eudosso e lo pregò e lo scongiurò affinché potesse partecipare anche lei. Alla fine il mio amico non seppe dirle di no. Avevo intenzione di tornare nella cantina per cercare qualche altro foglio di papiro, ma a noi si unì anche Pseusippo e non fu possibile. Le clessidre che seguirono al nostro ritorno in aula furono dedicate alla discussione se gli dèi si curassero o meno delle faccende umane e in che misura fosse necessario placarli con sacrifici e preghiere. Aristotele si estraniò completamente dal dibattito, sembrava assente, lontano. L'astenia era in forma smagliante, bella come mai e pienamente consapevole che durante la serata sarebbe stata al centro dell'attenzione. Aveva liberato i lunghi capelli raccolti sulla nuca e l'indomita chioma rossa le danzava sulle spalle, mentre negli occhi e sul volto aleggiava un'agitazione febbrile. Una voglia replessa di ridere, di fuggire dalla muffa dell'accademia. Raggiungemmo Piazza dell'Ippodamo al tramonto. Il sole era già calato nello squarcio di mare rossastro lasciato libero nelle mura di protezione del Cantaro. Decine di navi erano attraccate alla banchina e su alcune ancora ferveva l'attività di carico e scarico. Da poche clessidre era finita una regata per le panatenaiche. Doveva aver vinto il quartiere del ceramico, dato che frotte di sostenitori sbandieravano senza sosta le insegne rosse e azzurre, cantando inno in onore della dea Atena. Sedemmo sopra una panca, faceva ancora caldo. L'astenia mi scrutava con un'aria di mistero. Allora, Essiotea, proprio non vuoi dirmi che ti è successo? Ti ho osservata tutto il giorno. Sei qui con me, ma sei anche altrove. Se non ti conoscessi così bene, direi che sei preda di pene d'amore. E mi lanciò il più intimo dei sorrisi. Non trovavo la forza di guardarla negli occhi. Ieri sera, col pretesto che avevo bevuto un po' di vino, ho giaciuto con un uomo. Ho tradito Demos. Ho fatto l'amore per tutta la notte. È stato bello, ma ora mi sento male. E le gettai uno sguardo timido con la coda dell'occhio. L'astenia aveva sgranato gli occhi per la sorpresa, mi aveva strattonato per le spalle e aveva atteso che la guardassi. Allora era questo, l'avevo intuito, ma mi dicevo che non poteva essere, trattandosi di una folle come te votata alla castità. Oh, Assiotea, ti senti male perché è accaduto o perché vorresti che accadesse di nuovo? Ormai le avevo aperto il mio cuore. Dato che di queste faccende te ne intendi, dovresti averlo capito. E lei scuotendo la testa. Tutte e due, certo. Perché ora ti senti sdoppiata, come se in te ci fossero due persone. Una è la Siotea razionale, quella su cui puoi contare in ogni momento della tua giornata, della tua vita. E l'altra è saltata fuori all'improvviso che non conoscevo. Mi sentii avvampare in volto. Una che proprio tu a Fliunte cominciasti a mettere a nudo. Una Siotea che ti ha mollato all'improvviso. E per una notte si è rifugiata fra le braccia dell'amore. La dolcezza con cui mi guardava mi faceva intuire che comprendeva perfettamente quello che mi era accaduto. Non lo capisci, Assiotea? Gli dèi, o madre natura, hanno scritto qualcosa nel nostro sangue per salvarci. Quando ci troviamo in grave pericolo, quando stiamo affondando, siamo capaci di aggrapparci a chiunque ci porga una mano. A Fliunte era morta tua madre e ti afferrasti alla mia. Ieri sera all'uomo fortunato che te l'ha tesa. Ma ieri non era successo niente di grave nella mia vita. Mi accorsi di aver gridato. Ma che vai dicendo? Dalla notte di follia di Fliunte in poi, la tua vita è stata un inferno. fino a pochi giorni fa, quando sono giunta al laureo. E mentre la speranza sembrava tornare a sorriderti, ci hanno pensato Aristotele e Platone a stroncare sul nascere ogni tuo slancio vitale. Mi guardava con intensità, come a volermi leggere dentro. Non stare a tormentarti. Ti sei messa in testa di sfidare questo schifo di mondo. Ti ammiro. Ma sii indulgente con te stessa. Se madre natura o gli dèi o il caso qualche volta ti lanciano una mano e ti ci aggrappi. Distolse gli occhi dai miei. Si mise a seguire una nave che entrava nel porto in quel momento, scortata da un festoso stormo di gabbiani. Perdonami l'astenia. Sole sempre a parlare di me. Dimmi della tua nuova vita, ti prego. La strattonai per chiamare i suoi pensieri che stavano volando lontano. Riuscii ad acciuffare la sua attenzione. Sorrise forzatamente, meglio di quella che conducevo prima, senza dubbio. Come ti accennai, ho fatto un salto di classe. Sono lettera di Pseusippo, riesco con facilità a evadere le tasse e non ho bisogno d'altro. Sono abbastanza fortunata, amica mia, perché lui, contrariamente a tutti gli altri, è un mattacchione, sempre allegro. A volte collerico, ma per Zeus un uomo vitale, un amante insaziabile, un uomo vero. Vivere all'Accademia dopo la noia delle lezioni è fantastico, devi credermi. È il posto più bello del mondo. Piegò le labbra tumide mentre liberava un sorriso amaro che le deturpava la bellezza del volto. Il prezzo che Pseusippo mi costringe a pagare è quello di suonare l'aulos ai due banchetti settimanali. E lì non mi salva nessuno. Il mestiere che appresi a 13 anni devo continuare a esercitarlo. E mentre i vecchi bavosi baciano appassionatamente i loro belli sulla bocca o tra le cosce per poterli iniziare alla via del bene e della verità, io devo succhiare a loro la putredine. Raddrizzò la schiena, scacciando l'espressione amareggiata dal suo volto. Fine della storia. E sia tu che io, oggi non dobbiamo pensare a niente per Zeus. Fu investita da una ventata di tristezza. Lo prometto, l'astenia. Per te, per Eudosso e per Ofione. In quel momento venni avvolta da una figura calva che mi afferrò fra le braccia e col volto devastato dalle cicatrici prese a baciarmi. Assiotea! Rallegrati, bambina mia. Ce l'hai fatta uscire dal mondo degli inferi. Schioccai le dita ad una mano levata in alto, riempendomi il cuore col suo sorriso dolcissimo. Peribea! Sì, felice, non mi sono mai dimenticata di te, mai! Dietro di lui un uomo, anche lui calvo, con una profonda cicatrice al posto dell'occhio sinistro, attendeva compostamente, la solita espressione burbera sul volto. Mi staccai da Peribea e gli strinsi le mani. Grazie, Difilo, so che voi due avete contribuito alla mia liberazione. Sì, felice, Assiotea, il tuo ritorno ad Atene ridarà fiducia e vigore al nostro Tiaso. Ma la voce lamentevole di Difilo venne sovrastata da quella possente di Ofione. Attento a come parli, schiavo di Demostene! Assiotea mi ha eletto come padre e stasera, in assenza del suo uomo, sarò io a vigilare su di lei. Che intendevi con la faccenda che Assiotea ridarà fiducia e vigore al nostro Tiaso? Ed era così serio in volto da far spegnere il sorriso sulla bocca di tutti i presenti. Difilo non sapeva cosa rispondere, il suo unico occhio era sgranato più del solito. Ofione tuonò ancora, occhi pieni di sangue. Cosa intendevi per vigore, figlio di una cagna? Io non capivo, mi stavo spaventando, ma Ofione si girò verso di me e senza che Difilo potesse accorgersene, mi strizzò un occhio in segno di complicità. Difilo era visibilmente preoccupato e mentre Ofione continuava a minacciarlo con un cipiglio peggiore di quello di Cerbero, una voce bassa e sonora tuonò alle mie spalle. La volete finire di parlare per metafore? Volete che Assiotea diventi una donna vera oppure che resti una verginella ingenua e indifesa? E allora cominciate a parlare col linguaggio della vita vera, quello dei marinai che sentiamo attorno a noi, quello delle puttane del Pireo. Mi girai e mi trovai ad affrontare gli occhi ardenti di Diogene. Allora, Assiotea, tocca a me come segretario del Tiaso fare chiarezza. Gli ateniesi mi hanno affibbiato il soprannome di Scopazzo di Masturbia per il mio linguaggio crudo e sincero. Il nostro Tiaso, quello a cui sei stata invitata questa sera come animatrice, è il Tiaso degli sfortunati nell'amore, i reietti. Con queste mie orecchie ho sentito le parole che ha pronunciato il Guercio, il ritorno ad Atene di Assiotea ridarà vigore al nostro Tiaso. Ovvero sia, tradotto in linguaggio piraeico, Assiotea giacerà con tutti i disgraziati del nostro Tiaso, ridando vigore ai nostri peduncoli avvizziti. E Diogene gettò il capo indietro, furente, mentre Difilo era rimasto impietrito. Diogene affondò ancora più il coltello nel suo stupore. Difilo, credo che Ofione abbia capito benissimo le tue intenzioni e che abbia tutte le ragioni per inalberarsi. Tu vuoi giocare con la figlia e come se non bastasse, poi la daresti in pasto anche a Scopazzo di Masturbia. Guercio, credo che tu abbia passato ogni limite stavolta. E per Dio, non te la passerai liscia. E tanto per cominciare, stasera non verrai a cena con noi. Ti sei un po' troppo immedesimato nel ruolo di adepto del Tiaso dei Reietti. Diogene si girò verso di me e anche lui, senza che Difilo potesse accorgersene, mi strizzò un occhio complice. La voce lamentevole di Difilo riuscì finalmente a incunearsi. Ma che demone state dicendo? Quando ho detto che Assiotea avrebbe ridato fiducia e vigore al nostro Tiaso, non intendevo questa nostra stupida congrega da cui mi cancello e giuro di non metterci mai più piede, per Efesto. Intendevo il Tiaso dei copisti, per Dio. È il Tiaso di cui facciamo parte io, Peribea e Assiotea. E fece per andarsene. Ma riuscì a fare solo un mezzo passo, perché più che dalla mano di Peribea venne bloccato dalle risate quasi all'unisono di Ofione e Diogene, due vere esplosioni di allegria. E quando Difilo si girò, la sua faccia scatenò le risate mie di Lastenia e di Peribea. A me e Lastenia vennero le lacrime agli occhi. Attorno a noi si era riunito un capannello di ancelle e servette dei postriboli, venute ad accalappiare clienti della nave in arrivo, tutte felici anche senza capire. La nostra gioia tardò a diluirsi. Hai capito, Siotea, cosa ti aspetta questa sera? Mi fece Diogene felice. Riuscii a riprendere il controllo di me stessa. Non avevo mai riso tanto in vita mia. Oh Diogene, grazie per come sei. Se non ci fossi tu, la gente potrebbe anche pensare che Platone e Aristotele sono l'unico esempio da seguire. Oh Diogene, se tu vedessi, nell'Accademia ci respira il tanfo della morte. E gli sorrisi con gratitudine. Ofione, abbracciato a Difilo e Peribea, tonò di seguirlo alla tana del Teopompo. Era la stessa taverna dove avevamo mangiato giorni prima con Demos. Il cuoco persiano Aram ci accolse con una riverenza, ci fece accomodare al piano di sopra, un tetto desolato, solo un tavolo e delle sedie, ma da cui si vedeva parte del porto e del tramonto. Eudosso ci attendeva assieme a un omaccione che subito ci presentò. Era Coridemo, ex mercenario dell'Eubea, stratega, navarco, collaboratore e amico di Focione. Una specie di gigante, la faccia distrutta dalle cicatrici e coperta da una barba ispida, capelli fulvi, mezzo rossastri, bocca aguzza, feroci occhi porcini, che si infiammavano quando Eudosso lo presentò a me e Lastenia. Demoni e sicofanti, siate felici che ci fanno due creature come voi in questa combriccola di reietti! Alzò la mano destra in segno di saluto. Diogene volle che sedesse al suo fianco e Lastenia all'altro. Mentre ci sistemavano, arringò Coridemo. Sventurato, tre zampe, sta a noi fare in modo che queste due muse inviateci direttamente da Afrodite come animatrici non fuggano e che tornino il mese prossimo. Di fronte a noi si sistemarono Difilo, Ofione e Peribea. Sul lato del tavolo accanto a Lastenia e Eudosso, alla mia destra il gigante. La voce squillante di Eudosso richiamò l'attenzione di tutti. Che ne dite prima di tutto di prendere accordi col buon Aram per farci portare vino puro e soltanto dopo dare inizio al coro? Vino puro! Il mio spavento dovette divertire tutti perché scoppiarono in una fragorosa risata. Questa specie di sacerdotessa, apparentemente casta e pura, si mise a declamare Ofione. Ieri sera a casa di Focione, durante la cena, si è scolata almeno tre bicchieri di vino. Anche se era annacquato come si conviene, possiamo dire che dietro questo candido visetto si intravedono lucciole e lanterne. Poi, dopo aver chiamato Aram ad alta voce, mi fece con aria sorniona. Bevi quello che vuoi, figlia mia. Tanto ad Atene non torniamo. Dormiremo da Eudosso e ti garantisco che con lui non corri pericoli. Eudosso avvampò, ma l'arrivo del gestore della taverna bloccò gli scherzi già pronti a esplodere. Ofione ordinò vino puro di taso, birra e idromele per auletridi e filosofe. La cena la offriva lui, per cui era stata a sua cura ordinarla il giorno prima, tutto a base di pesce, come si usava a Creta. Perché voi ateniesi, aggiunse, non sapete mangiare, né cucinare, né bere. Aram fece per ritirarsi, ma l'Astenia si alzò in piedi e prese a declamare con la sua voce melodiosa un brano degli Acarnesi di Aristofane. Ehi tu, Aram, versa il miele sulle salsicce, friggi le seppie, arrostisci le anguille, arrostiscile che siano ben rosolate. Tutto è pronto. Tiaso di Efesto, divani, tavole, cuscini, tappeti, corone, profumi, stuzzichini, focacce, pizze, torte di sesamo, ballerine, bellocce. Poi, indicando se stessa e con un'aria buffa sul viso, e ci sono anche le puttane. Un applauso scrosciante salutò l'esibizione della mia amica, a cui si unirono quelli del gestore della taverna, il quale subito dopo si allontanò, tornando con le bevande. Mentre Diogene aveva cominciato a spiegare a me e l'Astenia lo statuto del Tiaso di Efesto. Questa combriccola è stata fondata da Ufione una decina d'anni fa. Come scopo principale si prefigge quello di donare agli iscritti e ai simpatizzanti allegria in quantità. Qui ci sono i fondatori che non se ne vanno mai, poi c'è gente che viene, che va, che ritorna. Ma Ufione strappò la parola a Diogene. Lascia che racconti come mi venne l'idea. Dunque, tutto cominciò con quella disgraziata di mia madre, una bella donna di Creta che fu venduta come moglie a un ricco commerciante. Ma lui era nano, per Dio. Mio padre era nano. E così sono nato io, un mezzo nano. Questa faccenda mi perseguita da sempre. A causa della mia statura, oltre al fatto che sono brutto come la fame, non sono mai riuscito a trovare una donna che ha voluto giacere con me. Piegò la bocca, un sorriso amaro. Inutile dirvi che se qualche volta ho adocchiato qualche bel ragazzo, il risultato è stato sempre lo stesso. Un mezzo nano brutto come me ha ricevuto sempre rifiuti. Ma l'assurdo di tutta la faccenda è che gli dèi mi hanno dato una faccia tosta incredibile. E così ho corteggiato donne e ragazze stupende, creature irraggiungibili, come l'Astenia per intenderci, le quali puntualmente mi hanno riso in faccia. Perciò ho collezionato una quantità di rifiuti incredibili e si stropicciava il naso. E allora mi dissi: sono l'unico reietto del mondo, indicò Eudosso che ascoltava rapito. Proprio in quell'epoca avevo conosciuto lui, che riusciva a conquistare le stelle, ma che veniva respinto anche dalle peggiori bagasce dei postriboli. Eudosso era così timido che ogni volta che si accennava a lui avvampava abbassando gli occhi per la vergogna, strappando puntualmente battutacce a Diogene e a Coridemo. Allora pensai, proseguì implacabile Ofione, sfruttiamo questa miniera di rifiuti, creiamo una combriccola di reietti con tanto di statuto e di regole, il cui articolo numero uno sarà questo. Il fine che si prefigge, il Tiaso di Efesto, è il suo scioglimento. Lo scopo degli adetti è abbandonare la congrega appena un membro ha accalappiato una bella donna o anche un bel ragazzo. Lo fa presente all'arconte e al segretario, paga una cena alla tana di Teopompo, viene cancellato dall'elenco dopo aver raccontato come sono andate le cose nel dettaglio e viene cacciato via. Le grosse mani crearono ancora più caos, affondando nella foresta dei capelli, occhi sempre più spiritati. E diciamo che il Tiaso ha portato fortuna a parecchi iscritti, almeno una decina sono entrati, sicuri che non sarebbero mai riusciti a farsi espellere. E invece ce l'hanno fatta. Poveri disgraziati, veri mostriciattoli, che hanno tirato su il morale a gente come me ed Eudosso. Beh, insomma, e se ce l'avevano fatta con gli sgorbi, perché noi dovevamo rinunciare alla speranza? Rimaneva la definizione delle regole, delle cariche. Pensammo che per un adepto volgare bastava aver accumulato una decina di rifiuti. Poi Per il segretario Scrivano una ventina e per l'arconterè una cinquantina. Eudosso fece un rapido calcolo e si assicurò il posto da scrivano con oltre 20 rifiuti accumulati. Ma lui è timido, mentre io, come sapete, ho una faccia da schiaffi. Insomma, feci un rapido calcolo. Avete un'idea di quanti no sono riuscito a collezionare in vita mia? E roteò gli occhi spiritati, un'ironica aria di trionfo sulla faccia. Dai 500 ai 1000, amici miei, eletto arconte a vita. E infatti, finora, nessuno è riuscito a insidiare il mio arcontato. A questo punto, mentre il cielo sopra di noi cominciava a mostrarci il manto stellato, Diogene strappò la parola a Ofione. La vita di questa combriccola scorreva più o meno noiosa, un gruppetto di povere creature che si univa una volta al mese per piangere sulle comuni disgrazie. Mancava un progetto più grande della miserevole risata. Ed ecco la fortuna. L'ingresso del sottoscritto, Diogene di Sinope, che riesce a ottenere l'iscrizione in quanto la radice maggiore dell'orchidea non mi faceva più effetto. Ed era finita la pacchia d'un tempo in cui avevo avuto per amanti creature come Laide, forse la più bella donna dell'Attica e dell'Ellade. Ebbene, amici, fu la svolta di questa congrega. Capì che avevamo bisogno di un progetto da realizzare. Dovevamo riuscire a trovare una montagna d'oro per finanziare una nave, affittare le più belle etere della terra e rifugiarci nei posti più pacifici in questo mondo in continua guerra. E accennava a Coridemo. I feroci occhi porcini del ciclope cominciarono ad assumere un'espressione preoccupata, forse presagendo l'arrivo del suo turno. Quasi contemporaneamente all'ingresso mio in questa congrega di reietti, entra un altro personaggio glorioso, il cui presente stratega Coridemo, in arte Tre Zampe, il cui destino è legato a un eccesso di abbondanza da parte di Dioniso, ed esplosi in una risata piena, contagiosa. L'omaccione prese a scuotere la testa sconsolato. Nel frattempo Aram aveva cominciato a portare le vivande, ostriche, teste di branzino in salsa piccante con sopra miele, olio e silfio, e tracce di pesce spada alla graticola, accompagnate da una salsa di prezzemolo e acciughe in salamoia. Era tutto così squisito che per una mezza clessidra sulla terrazza calò il silenzio degli affamati, rotto solo da qualche entusiastico apprezzamento nei riguardi del cuciniere. Il vino scorreva a fiumi, ma io non mi feci corrompere. Grossi bicchieri d'acqua con un dito di idromele, la cui vista faceva inorridire Diogene e Coridemo. A un certo punto fu proprio quest'ultimo a chiedere a Eudosso di raccontare la vera storia della faccenda del toro Apis. Il povero Eudosso fu sul punto di strozzarsi. Difilo dovette dargli parecchie pacche sulla schiena per aiutarlo a mandar giù il boccone che gli era andato di traverso. Poi Eudosso implorò a Coridemo di farlo raccontare a Diogene e ad Ofione, ma questi furono irremovibili. Un bacio sulla guancia da parte di Lastenia ottenne il prodigio e lo scienziato, tirando sugli angoli della bocca, raccontò. Ero un giovanotto, avevo poco più di 20 anni e il re di Sparta, Agesilao II, mi mandò come diplomatico in Egitto alla corte di Nectanebo II. Ci rimasi quasi un anno e approfittai a studiare con i sacerdoti l'astronomia, i moti dei pianeti, senza perdere tempo dietro le grazie femminili. Ma madre natura, lei, non io, premeva sui miei lombi di ventenne. Beh, insomma, mi ero invaghito di una sacerdotessa del toro Apis, dio della fertilità e della potenza sessuale, la quale ogni giorno sacrificava la sua ostrica di Afrodite al dio Apis, giacendo con uno schiavo lì davanti al toro. Dopo raccoglieva con un guscio d'ostrica il seme dello schiavo e lo spruzzava con le dita sulla tunica dorata che lo stesso era costretto a indossare mentre giaceva con lei. Poi lo schiavo girava 7 volte attorno al toro, a seconda delle reazioni dell'animale sacro, la sacerdotessa emetteva il suo oracolo. Un giorno escogitai un trucco per poter giacere con la sacerdotessa, infilarmi la tunica dorata e farmi passare per uno schiavo. A questo punto un applauso fragoroso incoraggiò Eudosso, il quale ormai senza più freni concluse il racconto. Le luci erano soffuse, aleggiavano fumi di incenso. Quel maledetto toro in mezzo alla sala scalpitava. Avevo afferrato una delle tuniche di quelle che mi avevano preceduto e feci per lanciarmi sulla sacerdotessa che mi aspettava languida e impaziente. Quando il maledettissimo toro, con le corna, afferrò la tunica che avevo indossato e non voleva più lasciarmi. La sacerdotessa si alzò in piedi e assistette al prodigio. Il toro Apis leccava la tunica dorata che indossavo io. Allora la sacerdotessa cominciò a leccare le sue orazioni al dio Apis e predisse che avrei avuto una vita breve ma illustre e mi cacciò via senza giacere con me. Ridacchiò costernato. Fu un boato di risate. Ofione e Diogene mimavano il toro divino Apis, gli chiedevano se la quinta zampa del divino animale fosse nelle dimensioni dell'adepto Coridemo o del demo dei tre zampe. Peribea sembrava impazzita per la gioia e si nascondeva nel petto di Difilo, il quale rideva a singhiozzi, anche quando gli altri avevano smesso e faceva riattaccare l'allegria. L'astenia era l'immagine della felicità. Eudosso, credimi, in vita mia non ho mai riso tanto. La storia del toro Apis è meravigliosa. Dato che anch'io sarò tuo ospite questa notte e dato che da una clessidra mi stai facendo il piedino. A questo punto Eudosso, libero e felice, si alzò, tirò su una gamba appoggiando sulla sedia uno dei suoi enormi piedi e gridava ridendo: Piedino io! Io non posso fare il piedino con questo zampone! L'astenia levava le braccia al cielo. Non è vero! Tu mi facevi il piedino! E io devo dimostrarti la mia gratitudine. Voglio fare quello che la stupida sacerdotessa egiziana rifiutò. E quello che si sono perse tutte le stupide donne che hai avuto la fortuna di incontrare. Se tu vuoi, Eudosso, questa notte io proverò a farti cacciare da questo meraviglioso tiaso di Efesto. Lo scienziato aveva gli occhi fuori dalle orbite, afferrò un altro boccale di vino puro, chiese attenzione, urlò un sì talmente lungo, bello e sonoro, che anche la luna appena spuntata in cielo dovette sentirlo. Tutti noi ci unimmo alle esclamazioni fragorose di libertà del nostro amico. Tornò a Ram con altro vino puro e birra, poi portò tanti piccoli canestrelli gonfi di biscotti, budini, bomboloni, pasticcini, torte e tortini, e quei dolcetti offrirono il pretesto per altri boccali di vino. L'allegria era alle stelle. L'oste aveva acceso delle lanterne a olio. Una luna piena accendeva d'argento l'acqua del porto e lo spicchio di mare libero. Per un po' di tempo Coridemo mi fissò con una gran curiosità, aggrottando la povera fronte devastata dalle cicatrici. All'improvviso spalancò gli occhi. Tu eri il segretario di Peride nell'assemblea per l'abolizione della schiavitù. Ora ti riconosco. Sbatté un pugno sul tavolo. Ecco chi sei, demoni e sicofanti! Eri stata condannata all'aureo! Non avevo capito che eri tu. E volle che brindassi con lui. Gridò nauseato alla vista del mio bicchiere d'acqua. Puoi berlo tranquillamente questo vino. Non è mica la lora, quello schifo che vi davano in miniera. Versai un dito di vino nel mio boccale colmo d'acqua. Brindai a lui e gli chiesi di raccontarmi la sua storia. E mentre Fiona aveva preso a narrare una delle tante disavventure subite a causa della sua bruttezza fisica, mentre ormai Eudosso tubava apertamente con l'astenia, assumendo pose teatrali così goffe da strappar lacrime di risate a Difilo e Peribea, Coridemo mi raccontò. Proprio a causa della mia corporatura mi salvarono. Ero uno dei tanti bambini esposti, figlio di nessuno, di uno schiavo, buttato nella spazzatura. Eppure doveva essere già evidente che sarei stato un tipo robusto. E così fui cresciuto, venduto, rivenduto e infine riscattato. Misi la mia forza fisica al servizio della guerra e formai una compagnia di soldati mercenari. In pochi anni io e i miei ragazzi ci facemmo un nome perché eravamo grandi combattenti e Atene ci ha chiamati. Ho trattato l'alleanza con Cerso Blepte. Insomma, per fartela breve, soprattutto grazie a Focione che mi stima molto, mi è stata concessa la cittadinanza e 2 anni fa sono stato eletto anche stratega. Beve vino, corrucciò soddisfatto alla bocca aguzza. So benissimo quello che vuole Atene da me e dai miei uomini. Saremo sempre i primi a difenderla dal Macedone. Ma devi sapere, Assiotea, che siamo tutti degli esposti, tutti reietti buttati nella spazzatura, quasi tutti ex schiavi. Per noi combattere e morire per Atene è un sogno. E brindò a me, una bellissima luce negli occhi feroci. Perciò ti sono grato per il tuo coraggio, Seotea. Quel giorno all'Apnice hai acceso in me la favilla della speranza. Iperide lo sa, approfitto di questa occasione per dirlo anche a te. Se doveste aver bisogno di qualcosa, contate su di me. Coridemo fra pochi giorni ritorna il mio compagno, Demos, riscattato da Eudosso. Era con me all'Aurio. Dobbiamo fare un viaggio alla penisola calcidica per conto di Eudosso. Demos è stato sempre schiavo nelle miniere, potremmo avere bisogno di qualche indicazione. Mi interruppi per attendere l'ondata che seguiva l'ennesimo scoppio di risate provocate dal racconto di Ofione. Ho visto le mappe geografiche del nostro amico. Sono molto approssimative. Mi ha detto che le migliori sono conservate nei porti militari qui accanto. Perdona la mia franchezza, Coridemo. Demoni e sicofanti, non dirlo mai più. Sono uno dei 10 strateghi di Atene e posso comandare sia un esercito che una flotta. Ma nel mio cuore continuo a essere uno schiavo, per Dio, e farò di tutto per aiutare te, Iperide. Mi afferrò una mano con la sua, occhi traboccanti di passione per le sue idee. Quando torna Demos, venite a trovarmi allo Strategeion. Sai dove si trova, vero? Edificio sopra la libreria di Ofione. Oppure ci vediamo direttamente ai papiri, forse è meglio. Sai, mi rispettano, ma anch'io mi porto dietro sempre l'infamia di essere nato schiavo. E scuoteva il capo amareggiato mentre la sua mano stringeva la mia, mi donava forza e fiducia. Grazie, Coridemo. Ci tengo molto a farti conoscere Demos e Eunai, un pastorello schiavo che Demos è andato a riscattare e che mi ha scelto come madre. Gli occhi socchiusi del gigante mostravano tracce di profonda emozione. Aran portò altro vino e altra birra, e la povera luna prese ad arrossire come le mie guance. Per tutto quello che riuscì a partorire ancora la gioia del tiaso di Efesto.